Che numeri state facendo? Abbiamo lanciato sul mercato italiano nel febbraio del 2016, siamo molto soddisfatti di come stanno andando le cose sul mercato. Ad oggi abbiamo una crescita di circa il 30% mese su mese. È un mercato ancora nascente per Retail Minotto. A livello mondiale Retail Minotto opera in 9 mercati, abbiamo raggiunto 750 milioni di visitatori l'anno scorso e abbiamo offerte a livello mondiale da oltre 70.000 brand e brand retailer. In Italia ovviamente stiamo nascendo, però il mercato è estremamente promettente. Oggi abbiamo superato in Italia il valore di 10 miliardi di euro, il controvalore del transato nel mercato e-commerce, con una crescita anno su anno tra il 17 e il 20%, trainato ovviamente dalla crescita del mobile, che ad oggi è quasi a una crescita del 95%. Quindi questo ci dà molte aspettative positive per il nostro sviluppo sul mercato italiano. In che misura la ricerca dello sconto è diventata l'elemento trainante dell'e-commerce anche in Italia? In misura molto importante. Secondo varie ricerche che abbiamo fatto in Europa e che faremo presto anche in Italia, oltre il 40% di tutti i consumatori ad oggi su internet afferma di fare shopping online per trovare l'offerta migliore. Il 40% dichiara di visitare il maggior numero di siti possibile per trovare la migliore offerta, e ad oggi il 55% degli utilizzatori abbandona il carrello, quindi non conclude l'acquisto su un sito commerciante se non ha trovato un codice sconto, una promozione o uno sconto per quell'articolo specifico che sta comprando. Quindi gli italiani, come tutti i consumatori europei, sono estremamente attenti al prezzo e utilizzano internet per trovare quello che cercano pagando il prezzo più giusto, e noi mettiamo a loro disposizione appunto decine di migliaia di codici sconti in modo che possano farlo in maniera efficace. I dati ci dicono che quasi un italiano su tre ormai fa acquisti online. I shopper italiani sono 19 milioni e l'e-commerce in Italia vale 20 miliardi di euro, in crescita a doppia cifra anno su anno. La prossima storia che vi raccontiamo punta sulla consegna perfetta, tra pochissimo, subito dopo la pausa. Essere e avere. Chi è abituato a comprare online sempre più cose, nel nostro paese si calcola siano stati acquistati solo nell'ultimo anno, pensate, 120 milioni di articoli, le consegne stanno diventando un problema. Portineria nel palazzo o reception sul posto di lavoro non per tutti, orari dei corrieri inconciliabili con i propri tempi, avvisi di consegna non riuscita, magazzini dove recuperare i pacchi molto scomodi, insomma, non sono pochi quelli che rinunciano al proprio acquisto online per gli intoppi della consegna. Sono i presupposti su cui nasce Milkman, un'app che ci consente di pianificare la consegna quando siamo effettivamente a casa e di raggruppare addirittura in un'unica consegna gli acquisti della settimana o dell'ultimo giorno, anche su diversi siti, concordando fasce orarie anche brevi. Disponibile per ora in questa fase di lancio solo a Milano, ne abbiamo parlato con il fondatore Antonio Perini. Con l'app di Milkman noi creiamo quello che chiamiamo un indirizzo Milkman, che alla fine dei conti è l'indirizzo di un nostro magazzino, che gli utenti possono usare come indirizzo di spedizione. A questo punto siamo noi a ricevere i pacchi per loro, siamo aperti tutto il giorno, conosciamo bene tutti i corrieri. Ogni volta che riceviamo un pacco per te, te lo notifichiamo tramite l'app e tu puoi in ogni momento decidere che cosa fare. Se richiedere la consegna, noi offriamo la consegna per fascia oraria ed è una fascia oraria estremamente flessibile e consegniamo anche alla sera fino al 10, al sabato, quindi cerchiamo insomma di venire incontro alle esigenze dei consumatori, dove invece i corrieri espressi tipicamente non riescono ad arrivare. Oppure invece che richiedere una consegna, alcuni preferiscono semplicemente aspettare, per esempio, l'arrivo di altri pacchi. Molti dei nostri utenti apprezzano particolarmente il concetto, che se vogliamo poi va anche nella direzione di rendere l'intero processo di online shopping più sostenibile, sia dal punto di vista dell'impatto che ha sul nostro pianeta e che avrà sul nostro pianeta dato il trend di forte crescita, sia, anche se vogliamo, sulla complessità logistica, familiare, individuale di ciascuno di noi. Quindi alcuni preferiscono aspettare e solo quando hanno un certo numero di colli ne richiedono poi la consegna finale. E quindi abbiamo sviluppato un'interfaccia molto, molto amichevole, molto intuitiva, in cui l'utente ci dice in che data e a partire da che ora, fino a quale altra ora, sarà disponibile. Abbiamo una tecnologia che è basata sullo smartphone, sul GPS e sulle mappe digitali, che ci permette di tracciarne l'esecuzione durante il corso della giornata, e di conseguenza siamo in grado, qualsiasi sia la fascia oraria richiesta dall'utente, di prevedere e condividere con l'utente una stima molto precisa sull'orario previsto di arrivo, ed è un'accuratezza che via via cresce. E di conseguenza aiutiamo anche nella microgestione di questo appuntamento gli utenti che a volte vorrebbero sapere se possono entrare in doccia oppure se possono scendere a comprare il latte. Pubblicando l'orario previsto di arrivo e inviando alcuni minuti prima un messaggio via push, quindi via il sistema operativo del telefono o via SMS a seconda dell'utente, la notifica che siamo in arrivo, e questo abbiamo scoperto che è molto molto apprezzato. Un ulteriore sforzo per far sentire l'utente veramente finalmente libero è il bottone di ripianificazione, nel senso che alcuni comprano un servizio di consegna per appuntamento, facciamo per esempio dalle 7 alle 8 di giovedì, perché sanno che in quel periodo di tempo saranno a casa. Poi però magari rimangono fermi nel traffico, oppure devono trattenersi in ufficio, insomma si rendono conto che per loro potrebbe essere problematico. Beh, in ogni momento possono cancellare l'appuntamento e richiederne un altro senza alcun costo aggiuntivo. Il costo qual è? Il costo della consegna dipende dai vincoli che l'utente ci vuole dare. Partiamo da una base di 1,90 euro per consegna. Il prezzo poi sale, a volte veramente di poche decine di centesimi, man mano che si stringe la fascia oraria. L'impatto più grosso ce l'hanno quelle fasce orarie estremamente strette, quindi dove ci viene richiesto un appuntamento molto preciso, negli orari più ambiti da tutti. L'interazione prevede che quando l'utente sceglie le fasce orarie viene guidato più facilmente verso la soluzione che per lui è più economica. La stessa soluzione che è più economica per lui è anche quella di minore impatto ambientale. Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Solo metafora dell'innovazione, il viaggio è sicuramente uno dei settori più affascinanti per immaginare gli scenari futuri in un contesto profondamente influenzato dagli stili di vita e di consumo. Nel 2030, ci dicono le stime, arriveremo a quasi 2 miliardi di viaggiatori internazionali che utilizzeranno nuovi mezzi, ma anche nuove formule di turismo, nuove mete e nuove occasioni di viaggio. Futurismi, bello il gioco di parole, sottotitolo. Il titolo Nuova mappa per i viaggiatori di domani è un libro che esplora il turismo a 360 gradi, guardando al futuro. Ecco che cosa ci ha detto la coautrice, l'altro è Armando Perez, Marta Friel. Non è solo una questione di tecnologie, ma anche è una sfida culturale spesso il turismo, e anche di nuove modalità di comunicazione. Pensiamo per esempio, nel libro parliamo molto di come oggi stiano arrivando sui nostri territori tantissimi turisti da nuove aree del mondo, e saper comunicare i nostri territori, le nostre risorse a appunto questi interlocutori che non sono i nostri soliti mercati di riferimento è sicuramente una sfida. E però ci sono poi tutta una serie anche di criticità legate a un cambio dimensionale del settore, un aumento della concorrenza, perché questi nuovi paesi che entrano sul mercato sono anche poi nuove destinazioni che ci fanno concorrenza come Sistema Italia, e quindi tutta una serie di criticità legate anche per esempio ai rischi del terrorismo internazionale di cui parliamo nel libro, E poi c'è appunto tutto il tema dello sviluppo tecnologico, delle nuove opportunità legate all'analisi dei dati. Il turismo purtroppo è un settore che ancora poco utilizza i grandi numeri, i big data e che fa analisi di settore molto approfondite, però ci sono delle opportunità incredibili su questo. Come le compagnie low cost con la scelta di scali secondari hanno cambiato anche le rotte turistiche, oggi all'origine di un fenomeno turistico ci può essere un museo, un ristorante oppure appunto una moda come quella delle wedding destination piuttosto che una meta per fare shopping. L'occasione, l'esperienza diventa protagoniste in questo senso. Sicuramente, beh, le low cost hanno cambiato tantissimo il nostro modo di viaggiare, ma già dagli anni 90, portandoci verso un turismo quasi frenetico da un certo punto di vista, per cui alla fine sceglievo sul prezzo e una destinazione che magari prima non era nemmeno nella mappa mentale turistica delle persone. Oggi in realtà stiamo ritornando a un'idea di turismo più di qualità. E sicuramente il tema dell'accessibilità e del prezzo fa ancora la differenza, però c'è una ricerca di qualità e di esperienze, di un ritorno a un turismo più lento, alla ricerca di esperienze autentiche sul territorio, e in questo senso stanno andando molto prodotti legati al wine and food tourism, ai cammini, al cicloturismo di qualità. E poi c'è anche tutto un tema in grande sviluppo che è quello legato al turismo e industrie creative, rispetto della produzione del made in, su cui c'è una domanda crescente e l'offerta si sta ancora adeguando, perché effettivamente il turista che vuole entrare in azienda e vedere come viene fatto il prodotto di quel territorio, conoscerlo, a volte i territori non sono ancora preparati e strutturati con un'offerta su questo. E proprio ai brand del Made in Italy, noti in tutto il mondo come eccellenze della creatività, della manifattura e dell'artigianato da proporre come meta turistica, guarda l'iniziativa Alta Gamma Italian Experiences, che offre ai visitatori stranieri la possibilità di visitare le aziende, i siti produttivi, i laboratori, gli atelier. Paolo Zegna, vicepresidente di Fondazione Alta Gamma. Ritenendoci con i nostri prodotti degli ambasciatori, questo riconoscendoci noi, ma credo anche riconosciuto un po' da tutti, essendo i nostri prodotti, i nostri nomi, i nostri brand, i nostri negozi un po' degli ambasciatori in giro per il mondo, e vedendo quant'è l'attrattiva che questi portano sul mercato internazionale, abbiamo pensato che ci sono oggi dei clienti che in una loro fase di maturazione esperienziale sono effettivamente alla ricerca di andare a scoprire chi c'è dietro questi nomi, chi c'è dietro queste vetrine, questi negozi, questi prodotti, e quindi il poter come Alta Gamma cercare di aprire i nostri laboratori, atelier, luoghi produttivi, conoscere le persone che vi lavorano, il perché creano in un certo modo piuttosto che in un certo altro, qual è la loro storia, la loro filosofia. Ci è sembrato che per un cliente internazionale, high spenders, che ama l'Italia ma la vuole conoscere in aspetti un pochettino più profondi, un pochettino più nascosti, ecco, avevamo un bene che poteva essere messo a disposizione. Abbiamo interpellato diversi tour operator, alla fine abbiamo deciso che IC Bellagio, che lavora già con 4.000 high spenders internazionali e li porta per dei viaggi su misura di altissimo livello a conoscere aspetti già sconosciuti in Italia, e abbiamo aggiunto a questi aspetti sconosciuti anche quelle che erano appunto le realtà aziendali che finora erano aperte forse a qualche cliente proprio, ma non erano mai entrati in un circuito più allargato. Quindi il concetto è dare una mano al turismo, un turismo di qualità, aprire le nostre aziende in un modo che permettesse a questi high spender di capire la filosofia dietro i nostri prodotti, quindi non fermarsi solo a degli aspetti più appariscenti, più normali, per a un certo punto creare delle esperienze produttive che legano sempre di più i clienti potenziali alle aziende e al nostro paese. Sono effettivamente delle esperienze che verranno modulate in funzione di quello che ogni azienda fa, può e decide di mettere in mostra e quello che il cliente dall'altra parte desidera conoscere. Abbiamo adottato un po' la terminologia del viaggio su misura. Se il cliente dice io vorrei vivere delle esperienze nuove e diverse in Italia, andremo poi a vedere con che azienda e con che profondità all'interno della stessa, con anche le altre esperienze che il Bellagio può unire, perché immaginiamo che uno da Osaka piuttosto che da Los Angeles non venga solo a vedere le aziende, viene in Italia per vivere delle esperienze nuove, tra le quali appunto quella di entrare in certe aziende potrebbe essere una di queste. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, grazie in regia a Filippo Aureggi, a domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.